dopo pioggia, dopo gelo. Oh cielo, stralucendo se ne va. Lasciate niente, mo te sconci che capille, come sei bella, si luciola pure tu. È primavera. Come mi piace questa gente che saluta e che si chiama cuore allegro come a me.